Sì, allora ci siamo quasi, eh? Sì, funziona. Allora. Uno ha fatto un breve giro in bagno, l'altro sta finendo una birra e poi iniziamo. Piazzati pure. Quella è per me. Quella birra è per me. No, no, no, no, è sua. Prendi Esatto. Allora. pure da lì dal. Potevano offrircela a noi, Sì, noi infatti. schiavi salariati. Bravissimo. A me questo è si è bagnato durante una delle piogge. Grazie mille. Vabbè, intanto iniziamo. Io presento chi mi presenta. In una serie continua di presentazioni finiremo la serata. Allora, Andrea Monti, che è l'editor di questo romanzo, nonché il direttore della collana in cui viene proposto. E Alberto Stracuzzi, che invece presenterà il sottoscritto, dialogherà col sottoscritto e sarà spietato come suo solito. È questo? Sì. Parlo al microfono perché poi c'è Tutò che mi sgrida perché poi non si sente la registrazione. Allora, beh, la prima cosa, grazie per avermelo chiesto. Come dire, sono quasi 40 anni che ci conosciamo, quindi i due Alberti si fanno, come dire, si passano la palla in queste attività. Sono divertito dal fatto che ho un amico, un compagno con cui ho condiviso e condivido tanti momenti di personali, ma anche di attività politica, che a un certo punto della sua, come dire, esistenza ha deciso che ha deciso di scrivere dei libri. Dico, ha deciso di scrivere dei libri, perché questo è il secondo, giusto? E se un po' ti conosco, sta bollendo già nuova roba, ecco. Posso Anzi, confermare? ha già fatto l'editing. Esatto. E dobbiamo fargli i complimenti perché ultimamente leggo dei libri editati veramente male, invece nel caso di Alberto l'editing è Erano già ben scritti, non è che abbia impeccabile. rivoluzionato. Però insomma, una manina ogni tanto può essere utile. Allora, io non so quanti di voi hanno già letto il libro. C'è una quota di persone a cui però dobbiamo raccontare un pochettino, no? Allora, inizio io perché poi Alberto è molto preoccupato di non rivelare, come dire, momenti o passaggi abilitanti del libro. Per cui inizio io cercando al limite di prendermi la colpa se invece avrò fatto delle cose che non vanno bene. Allora, il libro rappresenta una realtà che possiamo definire distopica. Sì, nella misura in cui distopica va bene anche per una realtà attuale, perché se mi è permesso fare un paragone, ma perché ti devo fare i complimenti, perché poi le domande cattive arriveranno dopo, ho ritrovato in questo libro, mentre nel primo che avevi scritto già c'era un impatto che ci faceva rendere conto che non si stava narrando una vicenda che avevamo vissuto, perché iniziava una guerra fin dall'inizio del libro, no? In questo libro tutto parte abbastanza serenamente, si racconta di un palazzo di periferia come uno dei tanti palazzi di periferia e poi non so cosa sta succedendo, sento dei fischi e poi improvvisamente cominciano a introdursi degli elementi che ci fanno rendere conto che quella che sembra una realtà contemporanea non lo è perché presenta dei fenomeni che sono credibili, preoccupantemente credibili, ma fortunatamente ancora non avvengono nella nostra realtà. E il paragone che ho fatto lo faccio con alcuni romanzi di Palahniuk, cioè senza il più famoso Fight Club, in cui fin dall'inizio si capisce che c'è una realtà che è distorta nella mente di qualcuno, ma chi ha letto Rabbia è un romanzo che sembra partire con una serie di persone che fanno una vita assolutamente normale. Ci sono degli indizi che dovrebbero preoccuparci, ma solo a metà libro ti rendi conto di essere in un mondo assurdo in cui metà della popolazione vive per legge di giorno e l'altra metà della popolazione può stare sveglia per legge di notte. Quindi questa cosa definisce molto del contesto del romanzo. Questo è un romanzo che inizia raccontando di questa torre azzurra, per cui ti pregherei di descriverci cos'è questa torre azzurra, e di queste persone che improvvisamente, questo lo diciamo, non è, come dire, non è rivelazione, compiono un'attività che è un'attività lavorativa o non lavorativa, poi ce lo spiegherai tu, in cui sostanzialmente si fanno campionare i sogni. E qui lascio la parola a te. Perché una realtà distopica e perché i sogni? Sì, è una realtà sicuramente distopica, ma non molto più distopica del presente che viviamo. Ed è anche molto simile, si ambienta a Milano ed è una Milano assolutamente riconoscibile, si ambienta in una periferia milanese che è Rogoredo, anche se il palazzo che io ho immaginato nella realtà sta sulla Martesana, è una brutta torre alla Martesana e io l'ho trasportato virtualmente in fondo a Rogoredo. Ed è una realtà forse anche più vivace di quella che stiamo vivendo al giorno d'oggi, vivace dal punto di vista politico e sociale, ma appunto nella quale si è affermata un'invenzione che è quella di cui parlava prima Alberto, cioè è stata creata una macchina che registra le immagini dei sogni e un software che le traduce in dei video. I video possono essere utilizzati all'interno dei prodotti dell'industria culturale, insomma il film, le serie. Perché questo? Perché l'industria culturale ormai ha esaurito gran parte delle storie da raccontare, è in decadenza, ma ha scoperto che le immagini provenienti dall'inconscio hanno una presa fortissima sul pubblico e quindi infilare delle immagini tratte dai sogni tiene il pubblico attaccato al film o alla serie. Inizialmente questa cosa è stata fatta su base volontaria, poi è diventata, come tante cose, soprattutto tante innovazioni a base tecnologica, partono su base puramente volontaria e poi diventano di fatto un obbligo sociale. Quindi in questa città tutti si fanno campionare i sogni e quando vengono utilizzati all'interno di una puntata di una serie, hanno come unico riconoscimento una citazione nei credits e ciò gli deve bastare, ciò gli basta, come tante cose simili a noi bastano, no? Quindi ci hanno gratificato perché ci hanno menzionato. Diciamo altro che il quarto d'ora di celebrità, no? i 15 secondi di celebrità. Neanche, perché sono i credits, certo. Probabilmente 2-3 secondi di tu interrompici se vuoi. No, io mi godo dello spettacolo. Mentre ragionavamo su questa serata, mi capita di leggere un articolo che è qua, poi se qualcuno se lo vuole vedere, su Le Monde Diplomatique, la versione italiana ovviamente, io non leggo il francese, che si intitola Dove è finito l'inconscio, ed è un articolo interessante che ti pregherei di commentare alla luce di questo che hai appena detto. L'articolo sostanzialmente dice: c'è stata un'epoca storica nella quale l'inconscio è stato scoperto, no? Freud, poi quelli dopo Freud, ed è stato qualcosa di distruttivo. Cioè si è affermato innanzitutto che gli esseri umani quello che fanno non è spinto da motivazioni razionali o da pulsioni comunque razionalmente descrivibili, ma da un coacervo di paure, di sentimenti, di desideri e di emozioni che neanche gli esseri umani sanno di avere e che soltanto a livello inconscio si manifestano nei sogni, ecco, quindi per questo il collegamento che mi è subito venuto in mente, e questo è stato un messaggio iperdistruttivo, perché l'inconscio è un fattore non irregimentabile. non è qualcosa che puoi ordinare. Tu puoi convincere le persone a pensare in una maniera, puoi convincere le persone a comportarsi in una maniera, è estremamente difficile aiutarli a sognare in una maniera, cioè a utilizzare i loro sogni. Nel corso del tempo, in realtà questo avviene agli inizi del Novecento, nel corso del tempo e nell'epoca moderna, soprattutto negli ultimi 20 anni, l'articolo sostiene, hanno normalizzato l'inconscio, perché con tutti i programmi di quello che in inglese viene chiamata mindfulness, no? Cerca di comprenderti, cerca di capirti, cerca di essere te stesso e di rappresentarti, no? Ti aiutano a gestire tutte quelle emozioni che in alcuni casi ti dicono sono emozioni negative e che invece per la psicanalisi non sono negative, sono il prodotto, no? del nostro cervello, e cerca di gestire le tue emozioni negative, acquisiscile, accettale, organizzale, governale, e quindi l'inconscio sparisce, da quel titolo dove è finito l'inconscio. Quindi, per assurdo, la distopia del tuo romanzo non è poi così distopica, se pensiamo, ecco, che forse è un processo addirittura più razionale e più preciso quello di dire mettiti un caschetto e ti campiono i sogni, rispetto a persuado milioni di persone a pensare che le loro pulsioni siano sbagliate, siano negative, e quindi soprattutto ancora più negative perché sono incontrollabili, no? Perché sono nell'inconscio. Quindi, per assurdo, tu stai proponendo una realtà che forse è un pelo più dorata di quella che racconta questo articolo? Ho letto più dorata, anche questo. Più, meno angosciante. Ho letto anche questo articolo, ovviamente, quando il libro era già stato pubblicato, perché è comparso nel numero di ottobre, no? Però anche a me è venuto in mente che aveva molti lati in comune con quello che ho proposto io. Nel mio romanzo i sogni diventano parte di una merce, e quindi da quel punto di vista non so se sia più edulcorata o meno, però è un'ulteriore evoluzione del processo di mercificazione a cui ci ha condotto il capitalismo in questa fase. Quindi questa cosa è estremamente, rispetto a quello che hai citato tu, dove c'è la tendenza a voler semplicemente disattivare le potenzialità dell'inconscio e proporre delle terapie molto mercificate, perché costano in maniera importante, ecco. Molto, molto accomodanti e molto funzionali anche alla resa lavorativa. Quindi alcuni sono percorsi interni alle aziende. Nel mio caso invece c'è il fatto che l'inconscio viene utilizzato nella produzione di massa, di una merce che è prodotta a livello di massa. Ovviamente, trattandosi di un romanzo, insomma, di un'opera che dovrebbe essere letteraria, e speriamo di fantasia, qui vale molto l'aspetto della metafora, che in questo caso ce ne sono altre all'interno del romanzo, però questa è anche molto immediata come metafora, cioè ci vengono addirittura sottratti i sogni, anche i sogni vengono mercificati e messi a valore. Certo, adesso vi leggo un pezzo, perché c'è un, per chi ha letto il libro non è una novità, per chi non leggerà speriamo di non rivelare troppo, però è importante in questa chiacchierata che vogliamo fare oggi. Vi leggerò un pezzo dell'articolo perché è proprio identificativo di quello che dicevi tu, no? È il finale, no? Dice: proprio come la presunta verità di quel che prenderà il nome di identità, o ancor meglio di anima, il concetto di inconscio viene smontato. Il soggetto è al bivio tra due alienazioni, quella intima e quella collettiva. Gli imprenditori dell'igiene di successo, perché la lotta alle pulsioni negative e a ciò che è nell'inconscio ci turba, e naturalmente blocca la competizione, blocca la produzione, blocca la capacità di produrre, e quindi tutti questi corsi che cercano di far accettare queste, gestire il tuo inconscio in maniera migliore, ti spingono a essere la parte migliore di te, dove la parte migliore di te è quella che produce meglio, non è quella che è più felice o è più soddisfatta. Infatti dice: gli imprenditori di genere e successo personale contribuiscono a occultarle entrambe, sia l'anima che sia la dimensione intima che collettiva, e si prodigano nella mistificazione di un'autoliberazione, cioè convincono le persone che si stanno liberando da sole del loro patemi di carattere inconscio, che esalta infine la rassegnazione. Cioè, se io ti insegno che ciò che stai provando è sbagliato e te ne devi liberare, alla fine quello che farai non è altro che accettare il contesto in cui ti muovi. È il contrario, con il pretesto della liberazione, più o meno storica dell'emancipazione. Quindi, anziché liberarti, loro ti dicono che ti stai liberando, anziché liberarti ti stai costruendo quella che chiama schiavitù volontaria, sorridente, ricompensata da una stima di sé deliziosamente rafforzata, che secondo me, per chi ha letto il libro, sa che è la perfetta definizione di queste persone che con il caschetto sono tutte contente, perché c'è una scena in cui ho visto, cioè, il mio nome comparirà o è comparso, certo, in quella determinata puntata. E qua chiamo, qual è l'effetto? Qui l'articolo dice che l'effetto, come dire, collaterale di questa operazione è la rassegnazione e l'irreggimentazione ancora più definita, no, delle persone. Nel caso del tuo romanzo si assiste all'inizio a una cosa che sembra di figlia di quasi uno scherzo o una incomprensione, ma ci si comincia a rendere conto che c'è un fattore che sta scattando, non solo questa rassegnata e sorridente goduria da bonzo, no, che è felice per il fatto che i suoi sogni siano usati in una serie televisiva, ma le persone cominciano a sostenere che certi fatti non sono esistiti, e quindi non si capisce se chi li ricorda sbaglia il ricordo o veramente c'è qualcuno che i ricordi, ma estremamente recenti, si parla banalmente di una manifestazione che è avvenuta l'inverno prima, se non ricordo male, da una stagione all'altra se lo sono dimenticato. Questo tema della memoria tu lo tiri spesso fuori in conversazioni che facciamo, no? Alberto è uno che dice che la memoria è qualcosa di estremamente labile di suo, però ecco, l'hai tutto trasfuso qua dentro e vorrei che ci parlassi di questo discorso della memoria che è centrale, perché è ciò per cui tutta la trama poi corre verso il suo finale. Sì, questo è assolutamente l'aspetto centrale. All'inizio nessuno capisce, neanche le multinazionali che gestiscono questa industria culturale hanno capito qual è la conseguenza dell'utilizzo di questo software che traduce i sogni in immagini e della fruizione di queste immagini. Le conseguenze sono in realtà due: una perdita progressiva del senso della realtà e, come diceva Alberto, una perdita di memoria anche del presente, non solo la memoria storica di cui noi abbiamo sempre parlato, favoleggiato, l'importanza del mantenere il filo rosso, la memoria storica, per noi, per la nostra parte politica, la memoria delle lotte, ma anche la memoria dei fatti storici più recenti. E effettivamente, come accennavo prima, lo scenario sociale non è completamente pacificato come ci si potrebbe aspettare. Ci sono delle manifestazioni, c'è un movimento estremamente effimero che potrebbe ricordare alcuni movimenti degli ultimi anni, dai girotondi alle sardine, che comunque chiama in piazza tante persone e che sparisce nel giro di poche settimane La maggior parte delle persone che ne erano coinvolte non si ricorda neanche più di averne fatto parte, che ci sia stato, e così via. Di questa conseguenza ci si accorge poi lentamente nel progredire della trama, e qui introduco alcuni altri elementi della trama che sono importanti. I protagonisti di questo romanzo sono dei ragazzini, in particolare un ragazzino che vive all'interno di questo palazzo di periferia e vive in una famiglia tra l'altro senza particolari problemi, e e un anziano, una persona appena andata in pensione, che è un vicino di casa e che lui ha individuato all'interno del suo condominio come la persona più, tutto sommato, più interessante, no? La persona che ha delle cose da raccontare, che vale spesso la pena di andare a trovare. E questo personaggio, che si chiama Bertazzi, ma che i ragazzini chiamano il vecchio, improvvisamente scompare. E quindi la trama del romanzo è in gran parte incentrata sulla ricerca che viene fatta da parte dei ragazzini del vecchio, e questa ricerca si svolge in diverse periferie milanesi. C'è anche un'altra vicenda che corre parallela per poi incrociarsi alla fine del romanzo, che è la storia di un giornalista che ha un passato di giornalista d'inchiesta, che ha fatto delle inchieste coraggiose e che ormai, come molti giornalisti, è preso dal demone della carriera, sta per diventare direttore di un importante giornale e vuol fare un'ultima inchiesta, anzi, no, forse per dimostrare a se stesso e agli altri che è ancora in grado di fare delle inchieste. Quello che una volta in un romanzo ho letto la frase aveva un grande passato e, ahimè, aveva anche un presente. Esatto. E lui improvvisa un'inchiesta su questo aspetto che ho descritto prima dell'industria culturale, senza sospettare inizialmente le conseguenze di cui vi ho parlato prima, cioè la perdita del senso della realtà e la perdita della memoria del presente. Ci si imbatterà lentamente mentre intervista dei personaggi che sono, diciamo, a suo avviso i personaggi più consoni per parlare di questo problema. E non vi anticipo ovviamente come avviene l'incrocio delle due storie, perché questo si sarebbe rivelazione. Sì. Però ecco lì, anche questo mi ha fatto venire in mente un'altra cosa che ho letto. Io sono convinto, non so se sia giusto il mio giudizio o se sia condiviso, però sono tre le ragioni per cui un libro vale la pena di essere letto. Il primo è che ti insegna qualcosa che non conoscevi. Il secondo, che sia ben scritto. E il terzo, che ti spinga a ritirare fuori o a riscoprire o ad andare a documentarti ulteriormente su cose che ti ha indicato. Ora, ovviamente, Alberto ha scritto un libro ben scritto e mi ha fatto pensare, ecco, a un'altra cosa su quale però vorrei che tu, senza appunto entrare sul perché, no, sul ruolo di questo giornalista, ma sulla figura di questo giornalista. C'è un libro che io consiglio a tutti di leggere, si chiama I Sicari di Trastevere, è qua, poi secondo me Calusca ce l'ha, è stato scritto da un giornalista che credo che fosse un giornalista del Giorno, che adesso è mancato diversi anni fa, e che, ve la dico in estrema sintesi, racconta questa storia che nasce con l'accoltellamento di un giovane direttore di un giornale d'assalto durante il periodo storico in cui sta perdendo potere la destra storica, quella romana, no? A fine del 1800, e sta prendendo piede la sinistra storica che si rifaceva idealmente a Garibaldi, molto anziano, no? Che quasi come in epoche recenti, chiuso nel suo eremo, mandava missive ai suoi accoliti su come agire politicamente. E quindi si instaura in un mondo, una città, innanzitutto Roma, in cui la cifra del romanzo è: se tu costruisci una nazione su una città pervasa dalla corruzione e che è una palude di corruzione, perché la storia avviene nel momento in cui le famiglie papaline, che formalmente non dovevano più avere alcun rapporto col governo italiano perché aveva preso Porta Pia, in realtà erano pronte alla qualunque per vendere i loro terreni oltre il Tevere, perché c'erano tutte le manovre di edificazione, di urbanizzazione, di sfruttamento del territorio, c'erano già. Quindi se edifichi una nazione su quei presupposti, il paese che poi avrai nel 2024 non sarà che figlio di quei presupposti. Ma anche qui c'è la figura di viene ucciso questo giovane direttore di giornale, molto d'assalto, molto d'inchiesta, molto arrabbiato, no? Più che un report ante litteram, e c'è il suo aiutante che pervade tutta la storia cercando di ricostruire cosa è successo. All'inizio si pensa a una questione di corna, poi si pensa a una questione politica, poi torna a una questione di corna, ma il romanzo è tutto costruito sul fatto che la cronaca, la propaganda del potere o dei vari poteri, perché fra l'altro c'è una città dove votano in pochissimi, quindi ci sono i comitati elettorali che spingono, e la contropropaganda, la controinchiesta, la controdenuncia, in realtà stanno insieme, cioè l'una non può esistere senza l'altra, e anche la controinchiesta, che fra l'altro nel nostro mondo, nella nostra area politica, è sempre stata un lavoro, se vogliamo, che ha manifestato o ha denunciato alcune strutture del sistema, ma questa contropropaganda e controinchiesta può stare in piedi solo perché si batte contro qualcuno che è il suo, è la sua antitesi, è il suo nemico, e quindi non ci può essere controinchiesta se non ci fosse un potere, e quindi non ci può essere un potere senza che lui generi in automatico, ripeto, senza rivelare troppo, senza lui che generi sostanzialmente il suo, vabbè, critico, no? La critica dell'opinione pubblica. Ecco, mi sembra di capire che la figura di questo giornalista è la figura di un giornalista che esiste perché deve fare l'inchiesta. Se non facesse l'inchiesta, però adesso è... No, senz'altro. È un mondo in cui l'informazione funziona come funziona peraltro adesso, cioè è un'informazione estremamente asservita a logiche di mercato e a logiche politiche. Ovviamente in questo caso, ma anche... Sta cercando di evitare di raccontare cosa succede. Ecco. Su un'altra questione di cui accenneremo più avanti, non c'è un piano preordinato. Come non c'è un piano preordinato, dal mio punto di vista, nella realtà. Non c'è il grande complotto del capitale. C'è una serie di meccanismi che funzionano indipendentemente dal fatto che qualcuno li pianifichi e che finiscono per portare consenso alle logiche dominanti. Quindi il fatto che il giornalista produca, il coraggioso giornalista che produce inchiesta, in realtà è estremamente funzionale, e l'inchiesta è un'inchiesta ormai, per modo di dire, non è stato predeterminato da nessuno. È semplicemente che questo personaggio che ha fatto carriera e ancora più ne vuol fare, sa che per far carriera e per stare all'interno dei meccanismi oliati del sistema non potrà fare chissà quale inchiesta. E così il suo, e qui anticipo magari un'altra cosa, un suo amico a cui si rivolge, che è un dirigente di questa multinazionale, lo utilizzerà come cartina di tornasole per un altro tipo di inchiesta ben più profonda che sta facendo lui a livello aziendale, perché a livello aziendale hanno iniziato a capire delle cose relativamente alle conseguenze che può avere questo meccanismo, e stanno cercando, questa volta sì con intenti seri, perché è funzionale ai loro interessi economici, di capire come funzionano le cose. A me ha fatto pensare a quel concetto che se la critica al potere, al sistema, in questo caso è una critica al potere, no? Una critica integrale al sistema, quella che fa questo giornalista, ma se la critica non diventa forza materiale, ma si limita a fare la critica, fa il mestiere che deve fare, perché c'è la versione del potere, c'è la versione di chi lo critica, e la forma di regimentazione della società può continuare, perché garantisce a tutti, no? di dire la propria. L'importante è che non spostino assolutamente nulla. Colgo una considerazione che hai fatto poco fa per una domanda e una considerazione su cui non avevamo ragionato. Hai parlato che i protagonisti sono fondamentalmente dei giovani, no? Delle persone giovani, poi ci sono degli altri personaggi. Alberto è un osservatore probabilmente onnivoro, no? Di varie umanità che ha incontrato nel corso della sua vita, per cui ci sono dei personaggi assolutamente improbabili ma probabilissimi, cioè tipo la signora, la donna che è semplicemente annoiata e che vuole avere l'ultimo colpo di adrenalina nel cercare di aiutare un giornalista di cui non capisce neanche che lavoro faccia, ad esempio, è una figura strepitosa. Però alla fine, ecco, fuori di battuta, ti è venuto, cioè, consapevolmente o ti è scappato, che le uniche figure positive in tutta questa storia, lo dico anche a quelli che non l'hanno letto, sono dei ragazzini. Cioè, se devo guardarlo con l'occhio un pochettino critico, non c'è un adulto o un anziano, compreso un personaggio rilevante, che però ha le sue contraddizioni, che ci faccia una vera bella figura. Alla fine, quelli che hanno rigore, coerenza e anche capacità di gestione delle proprie contraddizioni sono i ragazzini protagonisti. Ti è venuto così o è voluta questa cosa? No, è voluta, però io non ho una valutazione così negativa del vecchio. Ok. È un vecchio particolare, è un vecchio che sa parlare con i ragazzini e, diciamo, è il filo rosso di cui parlavo prima. Infatti suona la chitarra, quindi suona uno strumento che è un filo rosso di... Esattamente. Non è il mondo, diciamo, non è il mondo salvato dai ragazzini, sì, no? Non certo. È, non so, certo. Quello che vedeva la Morante nel 68, sì, che, sì. Ecco, solo i ragazzini ci possono salvare, non è questo il messaggio. Vuole essere molto più articolato, però sicuramente i ragazzini, in particolare alcuni, che comunque si ritengono abbastanza anormali rispetto ai loro coetanei, cioè non si trovano particolarmente bene con i coetanei, sono anche quelli che sono più sensibili a esplorare una realtà diversa e a formarsi un senso critico. E qui c'è un altro aspetto, ecco, che secondo me è importante, cioè è un tentativo questo romanzo anche di esplorare come lo si può fare con della narrativa, cioè non con rigore, neanche con delle tesi strutturate, però l'idea che ci sia sicuramente un livello di azione dell'ideologia dominante dal punto di vista proprio del veicolare delle idee, delle teorie, dei valori che servono a mantenere l'ordine costituito. Ma c'è anche un livello, magari più fondamentale, che agisce a livello cognitivo. Cioè, se io ti disattivo la capacità di avere un senso critico, lo stimolo ad averlo, lo stimolo a ragionare, a mettere insieme i fatti, a collegarli formulando delle teorie, se io riesco a disattivare le stesse molle dell'azione, per cui tu te ne stai tranquillo, vabbè, adesso dico magari un po' di ovvietà e di frasi fatte, no? A cincischiare col tuo cellulare tutto il tempo e non hai nessuno stimolo ad agire nella realtà in cui vivi, ecco che questo funziona molto meglio, credo, di tante idee che possono essere veicolate attraverso prodotti dell'industria culturale, perché in fin dei conti, per quanto l'industria culturale odierna sia saldamente nelle mani del capitale, non è che noi possiamo dire che i film, i libri, gli spettacoli teatrali siano una cinghia di trasmissione dell'ideologia dominante e ci asservano il potere, no? Ci sono entrambi gli aspetti, sono anche magari dei momenti di libertà all'interno della nostra società maggiori che altri, sono degli ambiti di libertà per certi versi. Invece questo livello è un livello più profondo e più condizionante. Faccio un altro esempio invece che non esce dal mio libro, ma forse in qualche modo mi ha ispirato. Il fatto di prevedere nei social che tu utilizzi lo strumento del like e che quindi tu sei portato a manifestare un consenso rispetto a qualcosa che ti viene mandato e non un dissenso, e che comunque il consenso sia critico. È una cosa che, se tu inizi a fare abitualmente tutti i giorni, ti condizionerà magari anche, soprattutto se non hai alle spalle, vabbè, un portato, anni e anni come ormai abbiamo noi, in cui hai pensato in modo diverso e forse non ti fai più allare il cervello. Ma se no, è una cosa che secondo me ti plasma molto, ti porta a pensare che non sia una cosa buona criticare, dissentire, ma la cosa migliore per stare in armonia con gli altri e manifestare il consenso, la faccina sorridente e così via. Ecco, questo forse è un elemento che mi ha aiutato a concepire questo tipo di meccanismo. Una battuta prima di sentire se ci sono domande. Certo. La battuta è quello che hai detto prima. Forse si riesce a fare meglio con un romanzo che con un saggio strutturato. Qual è il terreno, adesso è una domanda, lo so che è una domanda grossa, qual è il terreno del romanzo e qual è il terreno del saggio o di altre forme di... Perché tu quando ti sei messo a scrivere, in gioventù scrivevamo mini saggi, articoli di riviste, cose di questo genere qui, oggi scrivi un altro tipo di testo. Allora, trovo che siano, dal punto di vista di chi scrive, siano processi completamente diversi, e che sia molto più stimolante quello del romanzo. Divertente. Sì, stimolante, ma anche, sì, forse anche stimolante dal punto di vista del tipo di sforzo che uno cerca di fare, anche più difficile. Agiscono, io credo, a un livello molto diverso. Lo sforzo che io faccio con i miei romanzi è, per quanto inevitabilmente un romanzo, non è neanche vero, però comunque gran parte dei romanzi devono proporre una storia, devono raccontare una storia che appassioni e che tenga incollato il lettore e desideroso di arrivare a capire come va a finire. Questo meccanismo esiste e bisogna farci da Don Chisciotte, no? Però io cerco di, e l'ho fatto molto di più col primo romanzo, di costruire anche nella forma narrativa, in come concepisco l'intreccio, di dare la possibilità al lettore di avere un'attenzione vigile e critica mentre sta leggendo, e quindi di riflettere su alcuni passaggi e quindi anche sui concetti di cui parlavo prima. Non so se poi arrivi di più, ma forse se uno inizia a ragionare su un aspetto, magari è anche più stimolato a cercarsi un saggio che può essere utile ad approfondire quell'aspetto. Certo. Da parte mia penso che sia utile, insomma, il mio contributo, visti i temi che avete trattato anche voi, del perché si sceglie un libro, no? Visto insomma, che mi sono trovato, grazie alla fiducia di un amico editore, che un giorno mi ha, insomma, l'ho incontrato per caso a un funerale, e mi ha chiesto se ci conoscevamo prima come musicisti, mi ha chiesto se avevo delle pagine da pubblicare, e da lì ha pensato che potessimo creare una collana. E la collana si chiama Cavallo Verde, e l'idea di questa collana viene da Neruda, da una rivista che stava pubblicando Neruda proprio negli anni appena precedenti alla Guerra Civile Spagnola, che per me sono anche un momento storico che ancora non si è concluso, no? Nella contrapposizione, per dire, anche solo delle idee socialiste che allora c'erano, erano plurali, e magari l'Unione Sovietica in quella guerra ha tradito, no? In un certo senso. E quindi, insomma, mi sembra, ho chiesto, io faccio in realtà, insegno spagnolo in un liceo, non è che la casa editrice mi dia da vivere, anzi, siamo appena partiti, è proprio per me bello, cioè pensate, poter scegliere, no? Tra i manoscritti che arrivano nel paese, vedere che cosa c'è di vivo, perché in fondo dovrebbe essere questa una collana. e Alberto mi era stato segnalato da una collega di lettere che purtroppo nel mentre è scomparsa, e che era anche una grande sindacalista della scuola. Gli insegnanti, vi devo dire, sono molto asserviti, cioè dissentire è una cosa che non fanno più da non so quando, cioè, e quindi, cioè, questo è chiaramente una grande regressione. La Diana era l'unica che in collegio docenti, dove tutti si vergognavano quando la dirigente, ed era spesso, diceva cose inaccettabili, si alzava dal fondo e diceva no, e si prendeva la responsabilità di sembrare pazza davanti a gente che invece metteva solo la faccina. Perché mi è sembrato che il libro di Alberto dovesse essere scelto al di là del fatto che Diana, di cui mi fidavo, mi avesse detto che era uno che sapeva scrivere e che si poteva leggere il manoscritto. Prima cosa, che è una grande qualità e secondo me è rara, che la scrittura di Alberto è priva di autocompiacimento. Cioè la gente spesso quando scrive non si accorge che passano tante cose, tipo l'idea quanto sono bravo. E quella già, no? Distrugge il mondo che si è tentato di creare, qualunque esso sia, no? In questo caso i contenuti ce ne sono tanti. Inoltre, da prof di spagnolo, penso che lo spagnolo sia anche, diciamo, la varietà più viva del latino, e che quindi noi italiani dovremmo parlare tutti spagnolo e sentirlo come una cosa a noi molto vicina e un mondo con il quale collaborare. Tra l'altro l'America Latina è l'unico posto del mondo in cui ci sono idee di sinistra vive, mi pare, in questo momento, no? Cioè, e quindi Alberto ha fatto, no, un importante percorso di studi a Cuba quando era giovane. Questo secondo me lo ha formato come visione, come ha formato me. Quindi la sua prosa è diversa da quella degli altri scrittori italiani, perché in alcune cose scontati, tipo quello che il lettore deve fare uno sforzo, non lo si deve guidare in tutti i percorsi del libro, perché non lo si deve trattare come uno stupido. Questo è scontato nei libri di Cortázar, no? Per dire, che per me è un grande maestro. E, insomma, aveva a sua volta grandi maestri nella letteratura sudamericana precedente. E quindi questo fa sì che il libro abbia uno spessore che secondo me altri libri non hanno in Italia, e che lui sia un autore assolutamente degno e che tutto il panorama nazionale dovrebbe conoscere. Ecco. Poi ha ridato anche dignità al Sud Milano, perché nel romanzo parla del Sud Milano, da territorio dove noto che non si nota la differenza tra nutrie, bipedi e quadrupedi, però è un bellissimo territorio, purtroppo un po' contaminato ultimamente. Ci sono delle domande, ci eravamo appuntati un paio di altre cose, però magari ha senso se qualcuno vuole dire qualcosa. Chi l'ha letto, chi non l'ha letto? Perché non l'ha letto? Perché l'ha letto? Vai. Allora, più che una domanda, è uno piccolo spunto. Allora, vieni perché ci dicono sempre di parlare al microfono. Allora, io ho letto il libro, l'ho apprezzato molto, e l'ho apprezzato forse anche per dei motivi che possono sembrare un po' piccoli, no, perché parla di Milano. Ecco, Milano, rispetto a tante altre città d'Italia, Napoli, Roma, ha una letteratura piccola, ma anche a livello di immagine, come dire, non c'è niente che c'è nella musica, nell'arte, tante altre città. Io penso a Napoli, io penso a Roma, hanno una storia, una tradizione o quantomeno una visibilità. Milano, cioè io per esempio, un film bello che riguardava Milano, me lo ricordo di tanti anni fa, Fame chimica, poi Il nulla. Ecco, io mi chiedo come mai Milano, tutto sommato, che è la città più viva, economicamente più importante d'Italia, fatica così tanto avere un'immagine nella letteratura, e uno dei motivi per cui ho apprezzato veramente il libro di Alberto invece che gliela data, tra l'altro dal taglio della periferia, che è il taglio che vivo anch'io quotidianamente, che mi piacerebbe riuscire a portare in una forma di poetica. Anche perché tu, tra l'altro, vivi praticamente all'ombra della Torre Azzurra, sì. Non quella trasportata a Rogoredo, ma quella vera. No, è vero. Io perché non so Milano, darti una, dai, spiega non so perché darti Milano. Una risposta. Oltre al fatto che ci vivi, eccetera. Però è vero. Perché Allora, perché io l'ho ambientato a Milano e perché io mi sento di dover scrivere a partire dalle cose che conosco bene. Nel primo romanzo, fondamentalmente ho deciso di ambientare la storia a Milano e a Cuba per i motivi che venivano ricordati prima. Per quanto siano opere assolutamente di fantasia, mi sembra importante avere un solido ancoraggio alla realtà e non credo di essere capace di fare alla Salgari e immaginarmi in modo estremamente preciso e realistico dei posti che non ho mai visto e vissuto, ecco, soprattutto vissuto. Poi perché e mi interessavano le periferie, perché io vivo da sempre in una periferia e amo andare comunque in giro in bicicletta e visitarmi altri posti, fondamentalmente di periferie, e lì quindi avevo del materiale da utilizzare anche dal punto di vista descrittivo. Perché Milano non abbia quello che dicevi tu, ecco, francamente io non lo so, non ti so dare una risposta. Sicuramente Milano è sempre stato all'avanguardia negli ultimi, come è stata all'avanguardia nei movimenti rivoluzionari e nei movimenti artistici tanti anni fa, dagli anni Ottanta in poi è stata all'avanguardia in tutto il peggio che poi si è esteso al resto del paese. Lungi da me istituire un rapporto meccanicistico, deterministico, insomma, tra questo e la letteratura e l'arte in generale, perché so che non c'è una, diciamo, un rapporto così stretto e che potrebbero tranquillamente verificarsi delle controtendenze. Prendo anch'io atto del fatto che in questi anni si è verificato molto poco. Grazie. Altre domande? Andiamo ancora un po' avanti. Mi attacco a Milano. Sì. Perché senza esserci messi d'accordo, ci siamo conosciuti oggi, ho raccontato ad Alberto che un'altra cosa che mi ha fatto venire in mente il fatto che lui ha deciso di scrivere un libro è una cosa che ha scritto Bianciardi, infatti ho provato la citazione qua, ma intanto me l'ero imparata a memoria, quindi non ho bisogno di leggerla, che è proprio, fra l'altro conoscete, no? Sì, non è nella vita magra, è nel lavoro culturale. Un grossetano, io vado in vacanza a Grosseto, no, quindi conosco bene quegli ambienti, no? Un grossetano negli anni, fine anni 40, inizio anni 50, si trasferisce a Milano, la Milano degli anni 50, no? Quella in cui stanno tirando sul grattacielo Pirelli, eccetera, eccetera. E la Milano che racconta non è la Milano che abbiamo appena detto, no? È la Milano dove già una prima ondata di lotte è fallita, no? Perché insomma, è stata la liberazione, Milano, città che è insorta e ha definito la fine della guerra, perché la presa di Milano è il giorno della liberazione, e però tutte le pulsioni, no, che potevano spingere verso una classe operaia che a quel punto prendeva in mano le redini del proprio destino sono già sapientemente livellate. Per cui, fra l'altro, tutti i racconti che ci sentiamo raccontare di qua per Milano, gli anni 50 era una città molto dove si viveva bene, nelle osterie si mangiava bene con poco, Bianciardi racconta che mangiava di merda, cioè che stava male di notte, che un suo amico era stato portato all'ospedale perché andavano nelle osterie dove pagavano niente e gli davano della roba scaduta, tenuta male. Quindi il bel tempo antico era piuttosto brutto per i poveracci, perché poi Bianciardi era un poveraccio che tirava la cinghia. Ma c'è una frase bellissima nel lavoro culturale che dice Bianciardi era un grande critico della modernità e quindi era un anarchico conservatore concettualmente, no? Perché vedeva nella trasformazione dell'industria la perdita, no, dell'anima popolare, un pochettino come Pasolini, e quindi non ci vedeva la nascita di un nuovo soggetto che avrebbe preso il potere, ci vedeva soltanto gli aspetti negativi che fra l'altro su di lui colpivano particolarmente, perché abituato a zone di sole, di mare, di luce diversa, era venuto a Milano che aveva un clima diverso, una logica diversa e anche i ritmi diversi, una città che correva, mentre a Grosseto, ragazzi, quando si cammina un passettino uno, poi ti fermi, fai una conversazione, un altro passettino, questo è il ritmo normale tuttora adesso. Ma c'è questa frase che secondo me è molto divertente, per cui è una provocazione che faccio allo scrittore, no? Diceva: prima dell'invenzione della stampa, il libro era un oggetto raro, il lettore cercava disperatamente i libri. Dante racconta che parla, scrive una lettera a uno, mandami la copia, perché se lo copiavano a mano, perché vuole leggere quel libro. Si inventa la stampa e praticamente si comincia a produrre una quantità industriale di carta stampata e avviene il contrario, è il libro che si va a cercare il lettore. E conclude dicendo lui che lavorava in Feltrinelli, traduceva ed era un autore di libri, ma che senso ha mettersi a scrivere i libri, no? E addirittura in un'altra storia racconta di quando Calvino incontra la sua compagna che sta scrivendo un romanzo, dice, ma anche te ti metti a scrivere, ma no, ma dai, ma anche te che perdi te. Perché hai deciso prima o poi di metterti a scrivere? Considerato che ci sono tonnellate di libri in circolazione e che quindi devi andare a cercartelo il lettore che sta lì abbastanza, no, seduto in poltrona ad attendere che un libro gli venga messo sotto il naso. Considerato che in particolare in Italia quasi tutti scrivono e quasi nessuno legge, cioè è uno dei paesi in cui ci sono più autori e in cui ci sono meno lettori, quindi è un'impresa assolutamente suicida quella di mettersi a scrivere per avere un grande pubblico, per vendere, anche perché le grosse case editrici puntano su pochissimi editori che vengono spinti e che fanno gran parte del fatturato, poi il resto è poco o nulla. Le piccole case editrici si fa fatica a capire come stiano in piedi, molte persone pubblicano pagando, o autopubblicandosi o pagando l'editore. Che è il paradosso dei paradossi. Io mi sono dato come regola che non pago e non mi autopubblico. Pubblico solo se c'è un editore che ritiene degna il mio prodotto di essere pubblicato, o un concorso letterario che ha come premio la pubblicazione del vincitore, dei primi arrivati, no? Quindi questo qua. Ma perché ho deciso di farlo? A me è sempre piaciuto scrivere, mi ha sempre dato soddisfazione. E ho sempre però pensato che fosse estremamente complicato. Non pensavo di essere assolutamente all'altezza di scrivere un romanzo. Perché intuivo alcune delle difficoltà che poi ho incontrato. La storia la devi pensare, deve avere uno sviluppo, i personaggi che devono essere caratterizzati devono parlare in modo uno diverso dall'altro, e questo è complicatissimo. Come interviene il narratore, tutte cose che mi sembravano difficilissime. Poi, parlando con alcuni amici che si sono messi a un certo punto anche loro a scrivere magari racconti, così, e mi hanno detto guarda che io lo faccio, lo trovo interessante, bello, ho pensato vabbè, provo anche a farlo. E dal mio punto di vista vale la pena sviluppare un romanzo se hai un'idea forte iniziale, non una trama, cioè non è che mi appassioni così tanto la trama. In questo caso l'idea forte è quella che ho descritto all'inizio, no? Il poter utilizzare questa metafora dei sogni che vengono presi e messi a valore e descrivere appunto queste, diciamo, queste caratteristiche che secondo me ha la nostra società e che non sono magari molto analizzate, la perdita del senso della realtà, la perdita della memoria anche del presente, no? Non ho mai trovato dei saggi che entrassero, che proprio li affrontassero organicamente. Questa era la mia idea. Nel primo romanzo, l'idea forte era: cosa succede se scoppia una guerra grossa, no? Perché nel secondo dopoguerra ne abbiamo avute tantissime di guerre. Cosa succede se scoppia una guerra grossa che coinvolge l'Europa? Poi è scoppiata, peraltro, per cui uno si sente anche magari di portare un po' di sfiga in questo caso. Però quello era il punto di partenza che mi sembrava interessante. E da qui vediamo cosa succede. Cosa succede nel mondo che conosco? Quello non era un mondo un po' diverso e distopico come quello della Torre Azzurra. E quindi cosa fanno quelli che hanno sempre manifestato contro la guerra? In quanto tempo, quanto reggono, in quanto tempo si dissolvono alla prima svolta autoritaria? Fucciata. E così via. Queste idee, secondo me, valgono, motivano anche una fatica, perché è una fatica ed è un lavoro lungo, che è mettersi a scrivere un romanzo e quindi costruirci attorno una trama che possa essere accattivante e far vivere i personaggi. Poi normalmente uno si fa il suo schema, si pensa alla sua trama, ai suoi personaggi, inizia a scrivere e la trama se ne va da tutt'altra parte, i personaggi se ne vanno da tutt'altra parte. E quello è anche bello, no? È una parte creativa. Ma tu sei uno scrittore metodico, modello Paco Ignazio Taibo, che dice... Ciao, figurati. Buon rientro. Grazie di rivederti. A presto. Vabbè, ci vediamo a Reggio Emilia. Ciao. Paco Ignazio Taibo dice che lui scrive libri in ore culo, no? Perché lui dice ci sono le ore uomo nelle aziende e lui sono le ore culo, perché lui è uno metodico, attacca a lavorare alle 9 del mattino, si interrompe a mezzogiorno, pranza, vede un po' di amici, dà un ultimo colpettino tra le 5 e le 7 di sera, poi va a cena, ha una vita sociale probabilmente più intensa della nostra, nonostante la sua età. Ma tu sei un autore metodico oppure scrivi 70 cartelle un giorno e poi stai 3 mesi senza scrivere una riga? Questo è stato scritto con un certo metodo, un certo rigore, perché è stato scritto durante il lockdown. Quindi avevo un sacco di tempo, dovevo organizzarmi la giornata e l'ho scritto anche velocemente. Invece gli altri libri li scrivo, vado a periodi. Quando mi viene un'idea e posso svilupparla, loro sono anche molto motivato a ricavare del tempo, poi passo mesi senza, mesi o settimane, insomma dipende, senza scrivere nulla. Parliamo di un'altra rivelazione, sì. La droga. Cioè tu hai messo la droga nel romanzo, cioè era tanto che non si vedeva la droga nel romanzo, no? È una droga come... Tra l'altro proprio infilata nelle pagine. Esattamente, sì, quindi invitiamo tutti ad acquistare una copia, anzi più copie naturalmente. No, si parla di droga che ha una funzione che storicamente nelle aree da cui noi proveniamo, perché comunque... anziani sì, ma non abbiamo l'anagrafe di Hoffman, giusto per dire, ha un ruolo, ma è voluto questo ruolo, cioè l'echeggiare, l'allargare la sfera della coscienza oppure no? Quindi magari riveliamo anche questo piccolo dettaglio di cosa fa questa droga. Allora, senza rivelarvi come entra la droga nella trama del romanzo, però... La droga di cui si parla è una droga che restituisce il senso della realtà e la memoria del presente e quindi fa esattamente l'opposto di quello che normalmente si pensa debba fare la droga, cioè non è uno strumento di evasione dalla realtà, ma è uno strumento di rimmersione nella realtà e quindi... in qualche modo fa quello che Hoffman diceva, ti allarga la sfera della consapevolezza. Esatto, e quindi le possibilità cognitive. Okay, sì. Che è bizzarro, è una persona che da giovane si era formato in un'area politica diciamo più rigorosa e disciplinata di quella in cui... si diffuse Hoffman, oggi vi siete riconciliati. Tu e Hoffman e Kubrick vi siete riconciliati. Non possiamo raccontarci. No, certo. Le nostre frequentazioni con le sostanze le abbiamo avute. Ecco, non... Ho visto che c'era una domanda. Vieni qua perché... Ok. Sì, allora, c'è un, come dicevo prima, un movimento estremamente effimero e dai contenuti abbastanza legalitari, non so, l'onestà, la dignità all'inizio del romanzo e che sparisce molto velocemente, no? Se vogliamo assimilarlo con la nostra realtà vissuta recente, dicevo prima, le sardine o i girotondi. Poi c'è un partito che si chiama Partito dell'Uguaglianza e che non è molto definito dal punto di vista teorico, però potremmo assimilarlo a un nuovo partito comunista rivoluzionario, ecco, però che non ha le basi, la continuità teorica con i partiti comunisti. È una cosa nuova che appunto si incentra sull'uguaglianza, non sul marxismo, sul leninismo, però questa cosa ovviamente non viene molto descritta, viene accennata, e che è oggetto comunque di repressione poliziesca, ma non una repressione di tipo fascista, di un paese fascista, di una dittatura militare, ma un'ordinaria repressione di una democrazia come quella che stiamo vivendo noi, no? Una democrazia borghese che, come ha sempre fatto, ci reprime quando gli rompiamo i coglioni, ecco. No, fra l'altro è interessante la forma di repressione, perché è una repressione molto attuale, ma avevi ampi casi da cui attingere, no? Una repressione che parte prima dalla demonizzazione, poi dall'accusa, sicuramente avranno commesso delle cose che non hanno commesso, e quindi dopo che hai preparato ideologicamente, poi possono arrivare serenamente le mazzate, no? Pensiamo alla Francia dove, o alla Germania, dove semplicemente dire qualcosa contro il genocidio a Gaza è automaticamente antisemitismo, per cui non so, Mélenchon è stato accusato di antisemitismo, sono state citate frasi che non ha mai pronunciato, manifestazioni a cui non ha mai partecipato, sostegni a libri che non ha mai, cioè sono completamente false. Anche nel tuo romanzo si cita il partito, sicuramente il partito dell'uguaglianza ha fatto questo, ma fatti che non sono avvenuti. Certo. Ci sono altre domande? Vai, vieni qua. No, perché sono stato più volte cazziato. Perché quando ero io da quell'altro lato della barricata non facevo le domande senza parlare al microfono. Allora, io immagino che quando hai scritto il libro tu abbia pensato voler mandare un messaggio, no? Ai lettori. Quindi tre parole che descrivano tre aspetti del messaggio, o tre messaggi se ce li hai, e poi un motivo del perché dovremmo leggerlo. Perché c'è la droga, questo è perché c'è la droga, perché parla di Milano, perché c'è la droga. E... Allora, non essendo diciamo io un frequentatore di Twitter o di X, non contingenterò in tre parole o in n caratteri il mio pensiero. Sono cresciuti di recente. Anche questa, comunque anche questa cosa rientra nell'ambito che citavo prima. Se ti abitui al fatto che tu devi esprimere un concetto in un numero limitato di caratteri, ovviamente questo concetto sarà sicuramente impoverito. Cacca, bello. Dopodiché... No, io ne ho abbastanza di capacità di sintesi, ma credo vada combinata con la capacità di argomentare e restituire la complessità del reale. Per quanto sta sfuggendo la sfida, secondo me, le tre parole. Quello che volevo dire è esattamente quello che ho accennato prima, cioè viviamo in una società in cui si perde il senso della realtà e la memoria, fino al punto che si sta perdendo quella del presente, e se non si affronta questo nodo in un modo che non so neanch'io, ma che lo si deve affrontare dal punto di vista teorico e dal punto di vista pratico e collettivo, non c'è liberazione possibile. E infatti vediamo che ci sono molti motivi per cui non si producono dei movimenti rivoluzionari di massa in quasi nessun posto al mondo, soprattutto nei paesi a capitalismo avanzato. Andrebbero ovviamente affrontati tutti. Noi ci siamo sempre molto concentrati su aspetti che sono importanti, tipo sicuramente la sconfitta, la disarticolazione del blocco sociale, la classe operaia, eccetera, eccetera. Tutto quello che volete, sono tutti... Il vantaggio dello scambio internazionale, cioè in realtà siamo comunque la parte... Anche però, i più poveri di qua sono la parte più ricca del mondo, cioè l'aspettativa di alcuni è finire a fare, come dire, le banlieue di El Cairo, non... Certo, ci sono N fattori, io credo che però si debba riflettere anche su questo aspetto, cioè quanto il nostro messaggio, quello che noi possiamo dire con un saggio, con un articolo, con un comizio o con un'opera artistica, riesce ad arrivare oggi rispetto a quanto faceva 30-40 anni fa. Cioè, se non ci sono dei blocchi proprio cognitivi. Secondo me è un aspetto a livello di massa. È un aspetto su cui riflettere ed è la distopia che volevo presentare con questo romanzo, che ovviamente essendo un romanzo ha degli aspetti totalmente paradossali, a volte anche divertenti, però è incentrato su quello. Quindi questo era l'aspetto che volevo far passare e ha anche far passare anche un messaggio ottimistico, cioè questa cosa è possibile. Poi adesso non posso rivelarvi troppo del finale, però la droga rientra nel mondo delle metafore utilizzate. Ha lanciato il sasso, sta ritirando la mano. Non è che pensi realisticamente che arriverà un giorno una sostanza che ci restituirà la capacità di ribellarci. Se tu ne sei al corrente o se nel tuo laboratorio privato la sintetizzi, ti prego, faccela provare. Quindi perché leggere il mio romanzo? Beh, l'hanno detto meglio di me loro prima. Perché c'è Milano, perché c'è la droga, perché c'è la perdita della realtà da cui dobbiamo liberarci. È di mestiere, faccio la sintesi. Certo. Qualche altro intervento? Perché io gli avevo promesso una domanda bastarda che non gli ho anticipato. Vai! Però devi venire qua, Angelo. Te la vedi con l'amministrazione del posto. Ecco, il gerente qui potrebbe aver da ridire. Vedi che subito interviene. Ma non si dice che registrano, non si sente da remoto. Forse mi sono perso io dei pezzi. Questa questione della perdita della memoria anche breve e del contatto con la realtà è legato a questo processo di utilizzo dei sogni. Esatto. Ecco, se potevi capire meglio questo nesso, come avviene? Riguarda chi viene utilizzato o anche il pubblico che poi guarda questi prodotti? Cioè, puoi spiegare meglio questo pezzo? Perché io non l'ho capito, magari no, è un limite mio. Giustamente non l'hai capito perché volevo rivelare il meno possibile di trama, però... però... è spiegato a un certo punto, anche se non è spiegato nel dettaglio, però quello che ho immaginato è che il riversare una parte di inconscio nelle immagini determina in chi poi ne fruisce un estraniamento dalla realtà, cioè tu ti immetti in una realtà, diciamo in una realtà parallela, in una fiction che è alimentata però non da processi creativi giocati razionalmente, ma da un inconscio riversato lì dentro. Ed è questo che crea un cortocircuito e ti fa perdere la memoria del presente, il senso della realtà. Non è ovviamente, ripeto, quello che mi interessava era la metafora, non è una teoria plausibile, non neanche lontanamente. posso farti la domanda bastarda? Sì. La domanda bastarda è bastarda su due livelli. Prima perché è una provocazione, nel senso che adesso sentirai. E la seconda è perché andiamo molto vicini a rivelare il finale, ma dovrai essere bravo a non rivelarlo. Il finale è il finale. C'è una scena che, come in tutti i romanzi, c'è una scena finale, no? Come in tutto il romanzo, un po' a cavallo tra l'onirico, cioè tra la perdita di senso della realtà, o forse la realtà che sta tornando ad irrompere. Quali sono, come dire, secondo me c'è una citazione o delle citazioni di quella scena, senza dire qual è o cosa succede. Ce le avevi o è stato un parto del tuo cervello? Perché poi ti dico che a me ricorda un film che invece a nessuno dei due è piaciuto, e quindi così questo era il secondo livello di produzione. Ah no, assolutamente. A me interessava, e vabbè, ecco, qui non rivelo molto, utilizzare il circo e utilizzarlo sia all'inizio che alla fine del... Non vi dirò come rientra nella trama, ma c'è un circo molto particolare. Perché mi interessava? Non sono stato un frequentatore del circo da bambino, mi ci hanno portato credo 2 o 3 volte, non è che mi piacesse particolarmente, però anche qui mi serviva come metafora, ed è un circo molto diverso da quello che siamo abituati a immaginare. È un circo che vuol proporre una satira dell'esistente, quindi è quasi uno spettacolo di cabaret in realtà, che è l'elemento satirico che mi piace mettere nei libri, che nell'altro romanzo invece avevo un po' sparso per soprattutto i primi capitoli. Qua invece le scene tra amici, ex, ecco, compagni rivoluzionari. In questo caso mi interessava che andasse proprio a finire lì dentro in qualche modo. Ti ho risposto? Sì, perché a me ha ricordato un po'. C'è una scena in Sol dell'Avvenire che. No, che tu, no, esatto. No, e questa era la domanda bastarda. No, l'ho scritto anche scritto prima. Quindi sì. Nanni Moretti è un plagiario. Questa sì, è la notizia di oggi. La droga aumenta la consapevolezza e Nanni Moretti è un plagiario. Io avrei un'ultima domanda, se nessun altro vuole aggiungere. Ci dici qualcosa del prossimo, quello che è in editing? Sì, allora. Stiamo cercando di riuscire a non fargli rivelare nulla facendogliene parlare. Nel prossimo, diciamo, l'idea forte da cui sono partito è il distanziamento sociale, cioè che questo l'hai scritto durante il corso? No, l'ho scritto dopo, ipotizzando, e speriamo appunto che non porti sfiga, che allora lì c'è stata, noi abbiamo avuto una pandemia e c'è stato una delle risposte è stato il distanziamento sociale. Nel mio romanzo alla prima ondata ne arrivano altre 2 molto più pesanti, molto più letali, e quindi tutta la società si deve strutturare sulla base del distanziamento sociale, cioè ci sono ovviamente moltissimi morti, in particolare nel terzo mondo, e qua però la tecnologia riesce a fare un salto e ad adeguarsi e a rendere possibile, tramite meccanismi di intelligenza artificiale, così, che peraltro quando ho iniziato a scriverlo non era così discussa come adesso, e quindi era perfettamente gestibile la vita da remoto, ognuno chiuso nella propria casa. Il romanzo inizia però quando tutto ciò è finito e quindi non ci sono più le leggi draconiane che impongono il distanziamento sociale. Si potrebbe uscire, ma le persone non sono più abituate a farlo e sono ben contente di vivere isolate nelle loro case e interconnesse attraverso un sistema tecnologico. Ovviamente il punto di partenza è anche il fatto che io ritengo che il distanziamento sociale ci sia già e ci sia già da molto tempo, quindi noi abbiamo vissuto una forma emergenziale di distanziamento sociale dovuto alla pandemia, ma il fatto che in una città come Milano o comunque in una grande metropoli capitalista si viva in modo molto distanziato gli uni dagli altri è credo un dato di fatto, e quindi quello vuole essere una metafora del distanziamento sociale che viviamo. E poi da lì si sviluppa una trama che non sto ad anticipare. Ha già un titolo? Sì, io gli avevo dato un titolo un po' così, che era Il Grande Risotto, perché c'è un personaggio che si è rotto i coglioni di starsene in casa e vuole trascinare gli amici quantomeno al parco a fare una risottata, no? E faceva un po' il verso al Grande Reset, che è invece una delle teorie che sono state, che hanno avuto, diciamo, un fortunatamente effimero successo di gloria nel periodo del Covid. L'editore mi ha detto che con quel titolo lì non si andava da nessuna parte, quindi quello è diventato un sottotitolo, e mi ha suggerito un titolo che è Miss 20, che sarebbe il nome, anzi la sigla di questo apparato tecnologico che rende possibile vivere in forma distanziata, e che non vi sto a spiegare nel gioco di parole che racchiude, perché qui dovrei invece dilungarmi sulla trama e insomma faremo anche tardi. Ma non so cosa pensate voi, ma sicuramente magari ha ragione l'editore, che non si capiva, però Il Grande Risotto mi sembra un po' carino, meglio, decisamente meglio di Miss 20, che non si capisce. Altre se nessuno ha niente da dire, tocca a me bere la birra adesso, perché certo, la bevono tutti e noi qua siamo a becco asciutto. Va bene, grazie. Ci sono, grazie ovviamente anche alla Calusca e a Conchetta che mi hanno ospitato un'altra volta. Se a qualcuno interessa, c'è un tavolino di fianco a Totò dove ci sono copie della Torre Azzurra, se sono finiti ne ho qualcun altro, e copie di altri romanzi della collana.